Radio Onda Rossa, martedì 13 ottobre, comincia Note Cose Città. Come di consueto, i contatti 0649 17 50, www.ondarossa.info, podcast, informazione e chi più chi ne ha, più ne metta. Buonasera Fabio. Buonasera Ale. Allora, ciao, intanto a tutte, grazie. Ciao a tutti, mi fai salutare anche a me, grazie. Dimmi. Grazie perché la mia prima volta su una Harley. Figo, eh? Sì. Sei sicuro che è a posto parcheggiata qua sotto? Sì, sì, chi era tu? Ti fidi? Sì, sì. Vabbè. Allora, oggi che si fa? Oggi che si fa? Oggi abbiamo preso spunto dalla notizia della morte di Eddie Van Halen, lo saprete tutti immagino, lo scorso 7 ottobre è morto il chitarrista e il fondatore di Van Halen. Dell'omonima band. Abbiamo pensato di dedicare una puntata a lui, ma, o meglio, non dedicare a lui facendo una monografia di Van Halen, però appunto abbiamo preso spunto da lui per tributargli il giusto omaggio, quello che merita, ma anche perché la sua morte ci ha fatto riflettere in che senso i media mainstream, soprattutto, ma non necessariamente i media mainstream, anche nei social network, nel salutare e omaggiare il chitarrista venuto a mancare, l'hanno descritto come il padre dell'hard rock, il padre dell'heavy metal, e con tutto il rispetto per il personaggio, forse definirlo il padre dell'hard rock, dell'heavy metal, ci sembrava un po' eccessivo, ma anche una questione proprio di tempisti, di quando è uscito, di quando la sua band ha cominciato, poi ne parlerà meglio Ale, insomma, ci sembrava appunto un po' eccessivo questo. Probabilmente, anzi certamente, Eddie Van Halen è stato un personaggio chiave. Vabbè, stai a fare polemica. No, nessuna polemica, ci mancherebbe. È stato certamente un personaggio chiave come chitarrista, hard rock o anche heavy metal, possiamo definirlo, nel senso che la chitarra dopo di lui, la chitarra rock, è certamente cambiata dopo di lui, come forse era cambiata soltanto dopo Hendrix. Forse neanche Page e Blackmore hanno avuto quell'impatto sulla chitarra rock che ha avuto Eddie Van Halen, però da qui a definirlo padre, forse ce ne vuole, padre di un genere come appunto l'heavy metal o l'hard rock. Questo è un altro spunto di riflessione. Nel riportare la notizia abbiamo visto che molti mischiavano due generi che certamente sono vicini, anzi lo vedremo oggi, certamente sono legati tra loro, ma non si possono comunque sovrapporre l'hard rock e l'heavy metal. Quindi insomma, per arrivare al dunque, questa notizia ci ha fatto venire in mente di fare una puntata sui padri, sui tanti padri, perché poi non c'è un padre, no? Nel senso, il fenomeno musicale come la nascita di due sottogeneri del rock come l'hard rock e l'heavy metal è un po' più complesso, non c'è un elemento di causa e con un immediato effetto, e quindi questa notizia appunto ci ha fatto mettere insieme un po' di nomi, e oggi proveremo a ripercorrere la storia del rock duro, che poi in qualche, insomma, ha preso diversi nomi e diversi, che potremmo fare una puntata anche sui musicisti che hanno dato il nome alla propria band col nome loro. Ok, come mi viene in mente Van Halen, Santana e Bon Jovi. Vabbè, però secondo me, se scaviamo, pure Jimmy Experience, forse potrebbe, vabbè, comunque andiamo avanti a rientrare. Comunque adesso, vabbè, la puntata è stata spiegata. Prima di che Ale ci racconti un po' meglio la figura di Eddie Van Halen e il peso del suo gruppo, noi ci sentiamo una canzone tratta dal secondo album dei Van Halen, e la canzone si chiama Spanish Kid. Di fatto è Eddie Van Halen solo, cioè non c'è solo la chitarra, ma diciamo che era il momento del disco in cui Eddie Van Halen mostrava al mondo qualche sua Beh, sì, caratteristiche, era, insomma, era bravino, insomma, sì. Il primo disco, certamente lo direi tu, c'ha avuto un impatto enorme, qui ha messo un altro tassello nella storia della chitarra rock. Il titolo l'hai detto? Spanish Key, non l'ho detto, no, forse. Spanish Fly, Spanish Key, perdona. Miles. Ok, Spanish Fly Van Halen. Vabbè, e Paco De Lucia muto. Senti, io ho fatto un errore, credo che non se ne sia accorto nessuno. Sai che io ho sto vizio che faccio le cover da solo di tutte le canzoni che mi piacciono e poi le metto nei CD originali, e qui ero io. No, io un po'. Pensa, me era venuto il dubbio. Sull'ultimo armonico, sì. Sì, poi non ho fatto un tempo a rifarla. Comunque, è di Van Halen, originario olandese, poi lui ha 7 anni, insieme alla famiglia si trasferisce in California, insieme a lui c'è anche il fratello Alex. Per un certo periodo i due iniziano a suonare, uno la chitarra, poi la batteria, poi si invertono, insomma a un certo punto trovano la giusta strada ognuno di loro, e appunto Eddie si mette alla chitarra mentre Alex va alla batteria. Formano un gruppo che inizia a girare per i locali di Los Angeles, in particolare al Whiskey a Go-Go. Mi piace tantissimo il nome. Poi si uniscono anche David Lee Roth alla voce e il bassista Michael Anthony. Poi fanno, insomma, la gavetta continua fino a che con Gene Simmons dei Kiss, che un giorno li va a vedere in questo locale, se ne innamora, gli dice: ragazzi, ci penso io a farvi diventare famosi perché ve lo meritate. E il momento giusto arriva con il primo contratto, già con una major, la Warner Bros. E è il 1978, pubblicano il disco di esordio, appunto, che si chiama Van Halen. È uno degli esordi più significativi dell'intera storia del rock, intanto per vendite, ma anche per l'influenza che la musica ebbe all'interno di questo mondo. La rivista Guitar Magazine l'ha classificato anni fa come il secondo album di chitarre più influente di tutti i tempi, e la tecnica, effettivamente, il primo immagino che sia Hendrix, così vado per, cioè non l'ho cercata la notizia del primo, però immagino che sia quello. E i suoi riff, i power chords, gli armonici, il tapping, insomma, avranno un'influenza incredibile, anche perché si veniva da un periodo in cui, dopo il ciclone Hendrix, la chitarra stava un po', diciamo, adagiandosi sugli allori, quindi quando arriva la tecnica, il suo modo di suonare, scombussola letteralmente la vita dei chitarristi, quantomeno in questo genere. Eddie sfodera il meglio che sa dare. Assolutamente, la traccia che abbiamo scelto per immortalare il tutto è I'm the One, sono il solo, io sono Eddie Van Halen. I'm Papara shibiruwa bom papara shibiruwa bom papara shibiruwa papara shibiruwa bom papara shibiruwa papara shibiruwa bom papara shibiruwa. Di Van Halen con Ivan Halen, una cosa che non ho detto per tutta la puntata, diciamo, abbiamo all'incirca mantenuto una linea del tempo abbastanza rigida, abbastanza. Sì, non volendo, ci siamo accorti che pure la puntata va in ordine cronologico, appunto. Esatto, fatta in ordine eccezione. Cronologico, abbiamo però estrapolato Van Halen, ci sembrava. Vabbè, giusto, certo. Dare una. Da lì siamo partiti. Esatto, un'introduzione con lui. Vai. Ma adesso, dopo il doveroso tributo a Eddie Van Halen, lasciamo gli Stati Uniti, ce ne andiamo in Inghilterra, e in Inghilterra resteremo a lungo durante questa puntata. Inghilterra, che è la terra natia della band, che forse più di ogni altro può rivendicare, diciamo, la paternità dell'hard rock, e in qualche misura vedremo perché anche dell'heavy metal, anche se non hanno mai fatto davvero heavy metal. Parliamo dei Led Zeppelin, un gruppo che non c'ha bisogno di grandi presentazioni. E la band si forma nel 1968, è formata da Jimmy Page alla chitarra, John Paul Jones al basso e alle tastiere, Robert Plant alla voce e John Bonham alla batteria. Si scioglieranno soltanto nel 1980 per causa di forza maggiore, cioè quando morì Bonham. Loro non cambieranno mai formazione e, per fortuna, salvo qualche piccolo infelice tentativo in anni vicini a noi, non si sono mai più formati e non hanno mai più toccato quella formula che possiamo definire magica davvero. I Led Zeppelin hanno la grande particolarità, diciamo così, che entrano di diritto nella storia della musica tutta, non solo della musica dura, in pochissimi anni. Cioè, loro in 3 anni fanno un disco dietro l'altro, dischi che appunto li consacrano e gli consegnano le chiavi dell'Olimpo, del paradiso. A proposito di paradiso, Ale, ne parlavamo prima, pochi giorni fa è uscita una sentenza che vergognosa, forse un po' pilotata, ma comunque avranno trovato un accordo extragiudiziale. Comunque Stairway to Heaven non è un plagio, in realtà noi qui ce ne siamo occupati tempo fa, questo nonostante l'enormità, la grandezza della canzone, non facciamo tribunale e non abbiamo nulla contro gli Zeppelin. Insomma, la canzone, diciamo, è chiaramente ispirata ad altro, ma adesso non. Vabbè, io trovo vergognoso che non siamo stati chiamati a testimoniare, comunque. No, questo sì, un po' mi ha fatto. Vero? Fatto male anche a me. Dicevo, le Zeppelin entrano nella storia in pochissimi anni con i primi loro 4 album. Il primo album esce nel 12 gennaio del 69, il secondo album, e questo primo album è ancora fortemente, nonostante sia un disco che già segna un passaggio importante nella storia del rock, nel senso che non c'era nessuno all'epoca, in quei tempi, che menava come menavano le Zeppelin, e questo fu chiaro subito all'inizio, che loro, contrariamente ad altre band, fecero poca gavetta e furono molto ricercati e furono molto fortunati ad ottenere immediatamente un contratto con una grande casa discografica, era l'Atlantic, che gli darà un contratto anche molto esuoso, sì, con un sacco di soldi. Dava, come no? Cominciarono. Io infatti ho bene. Letto un'intervista al proprietario dell'Atlantic che diceva proprio che sì, comunque sono stati fortunati a trovare questo gruppo, l'hanno pagati tanto, però comunque l'investimento è stato, diciamo, abbondantemente ripagato. Direi. E l'altra artista, insomma, con cui loro avevano fatto la stessa operazione era Aretha Franklin, che anche lei gli ha dato abbastanza soddisfazione. Bravina. Anche un po' di cash, va. Bravina anche lei. Quindi, dopo questo, aver firmato un contratto con la major, loro, dicevo, nel 69 fanno 2 dischi, il primo che è ancora molto legato al, nonostante sia un disco in cui già l'hard rock è presente, è un disco ancora troppo, no troppo, ancora molto legato al blues, e il blues non sarà mai rinnegato durante tutta la loro carriera. Comunque questo è molto legato al blues, anche proprio nella scelta dei pezzi. Circa la metà dei brani che comporranno l'album erano cover di Willie Dixon, uno dei più grandi autori del blues moderno. Nello stesso anno, dicevo, esce Led Zeppelin 2. Ecco, Led Zeppelin 2 forse è il disco che più di ogni altro nella discografia segna proprio un passaggio fondamentale. Basti pensare alla prima canzone del lato A del vinile all'epoca, What a Lot of Love, insomma, l'hard rock è lì e ha già trovato una forma compiuta nella potenza della batteria di Bonham, nei riff di Page, nella voce pazzesca di Plant, nelle linee di basso di John Paul Jones. Dopo questa doppietta nel 69, a fine del 1970, a ottobre, esce il terzo album, che tra parentesi noi abbiamo scelto una canzone tratta da questo album, che però è un album un po' particolare perché è un album diviso a metà, il primo lato, il lato A, un lato elettrico, il lato B e un lato tutto acustico, registrato in uno studio mobile, che poi era lo studio mobile di Rolling Stone. È un disco che un po' a qualcuno all'epoca, nonostante il successo commerciale che comunque ha, fa storcere un po' la bocca, bocche che vengono tutte ricucite nel 71, quando esce l'album senza titolo, che poi verrà detto il quarto album, quello di Black Dog, Rock and Roll, Stairway to Heaven, eccetera eccetera. Posso chiedere una cosa? Sì. E tu dici storcere la bocca, io dico storcere il naso. Storcere la bocca? No, io non ho mai sentito storcere il naso. No, non hai sentito? No, magari mi sbaglio, però ha storto la bocca uno di solito quando c'ha un'espressione col naso. Forse tu perché c'hai quel difetto al naso, dici. Vero, può essere quello. Forse è legato a te. Comunque, scusa, la sto facendo troppo lunga. C'è una curiosità che però insomma si lega anche a qualcosa che affronteremo durante l'arco, durante questa puntata. Loro ancora prima di diventare innanzitutto loro, ed è un fatto più abbastanza raro per quei tempi, diventano prima famosi negli Stati Uniti e poi in Inghilterra. Il perché di questo, in parte legato all'Atlantic e quindi all'attività promozionale che viene svolta negli Stati Uniti, ma soprattutto è legato a una tournée che le Zeppelin fanno negli Stati Uniti ancora prima del primo album, in cui faranno da spalla, creeranno i concerti a una band importante come gli Iron Butterfly, e saranno così forti e così efficaci che gli Iron Butterfly furono offuscati proprio dalla loro presenza e pubblico, e poi rimase proprio di fatto, sì, rimandarono in pensione gli Iron Butterfly, sì. Questo non so se è un bene o un male, vedremo. Un'altra curiosità, visto che prima abbiamo parlato di Eddie Van Halen, il primo esempio di tapping, anche se non ancora canonizzato, ancora non portato alla perfezione, che sarà di Eddie Van Halen, è quello di Jimmy Page in un pezzo che fa parte di Led Zeppelin 2, cioè Heartbreaker. Comunque, e arrivo al dunque, abbiamo detto che i Led Zeppelin certamente sono i padri dell'hard rock, i padri nobili dell'hard rock, in qualche modo anticipano anche il metal. Viene considerata una loro canzone, che è quella che ascolteremo ora, Immigrant Song, la canzone con cui si apre Led Zeppelin 3, viene considerata la prima canzone di metal o comunque proto-metal. Non solo perché è una canzone molto dura, molto violenta, per il riff di batteria, chitarra di Page e Bonham, ma anche, o forse soprattutto, per i testi, perché Robert Plant nel testo si mette nei panni di un vichingo, diciamo così, e quindi la storia, la canzone ti apre con un urlo di battaglia pazzesco di Plant, cioè i vichinghi raccontano come si stanno preparando la guerra per resistere all'orda degli invasori che arrivano dal nord del continente europeo. Poi, infatti, se giri il disco al contrario si sente frequente anche tu il giro del vichingo a Fregene. No, poi vabbè, lasciamo per tutta la parte dei dischi al contrario, che pure meriterebbe un approfondimento. E quindi basta, Immigrant Song, abbiamo detto, per queste caratteristiche diventa una canzone che in qualche modo anticipa le rimette. La canzone è amatissima e conosciutissima, è stata usata in mille film, basti pensare a School of Rock, a Jack Black che gli implora di dargli i diritti, loro si cominceranno subito dopo la gag di Black. Io credo di aver detto tutto. Led Zeppelin, Immigrant Song. Drive our ships to New York. Immigrant Song, le Zeppelin hanno due cose città, ci siamo appena incamminati su questo sentiero che ci porta alla nascita dell'hard rock e del metal, e mentre i Led Zeppelin appunto tracciavano la strada con il loro hard rock imperniato di blues, un altro gruppo, sempre in Inghilterra, era ormai arrivato al loro quarto album. Loro hanno faticato un po' di più per arrivare al successo, però stavolta le influenze non sono del blues, sono quelle più vicine al progressive. È il 1970, a giugno esce In Rock dei Deep Purple, e grazie all'agenzia di design londinese, la Nesbitt Phillips e From, si fanno fotografare e ritagliano poi queste foto e le incollano sul Monte Rushmore in Sud Dakota. Il Monte Rushmore è quello dove sono scolpiti i padri fondatori Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln degli Stati Uniti. Adesso, quindi, per te, se mi posso permettere, più che i padri dell'hard rock o dell'heavy metal, sì, i padri di Photoshop. No, è qui, è bravo, è proprio qui che ti volevo, perché adesso tu sei un appassionato di Art Attack, che tra l'altro devo darti anche ancora il DVD con l'ultima stagione, però, e tutto questo fu fatto senza Photoshop, caro Fabio, proprio con le forbici da questa agenzia, forbici e colla, quindi hanno ritagliato i volti, li hanno appiccicati sulle facce che sostituivano i presidenti degli Stati Uniti, e poi con il pennello hanno proprio ritoccato per fare in modo che i volti si trasformassero come se fossero scolpiti sulla pietra. Il messaggio mi sembra abbastanza chiaro: siamo noi i padri di questo nuovo rock che sta nascendo. E appunto il loro quarto album qui fu fondamentale, l'innesto del cantante degli Anguilla nel basso di Nick Sample, che si unirono a Richie Blackmore, a John Lord, a Ian Pace e Blackmore qui poi, diciamo, all'uscita del disco dice una frase che sarà anche abbastanza fondamentale e ci spiega poi come un po' sia nell'hard rock, nel metal, ma anche diciamo in tutte le forme musicali, Blackmore disse: volevamo semplicemente fare più rumore e suonare il più veloce e forte di loro. E questo appunto è un po' una frase, no? che ci fa capire come poi l'evoluzione di questo genere è proprio dovuta al fatto che c'era sempre qualcuno che diceva: sì, vabbè, meni, ma io voglio fare più casino, meno di te. Più, un po' come, sì, insomma, sì. Il motore vero del... No, sono più coatto io di te. Sì. Comunque, noi abbiamo scelto di ascoltarci la traccia che chiude in rock, ovvero Hard Loving Man. È la traccia più lunga che ascoltiamo, però io direi che ne vale assolutamente la pena. Deep Purple. Mamma mia. Oh, quando il mondo si dividerà, le Zeppelin da una parte, di Purple dall'altra. Noi anche. Grazie, diventano sordo. Pensa che ci divideremo là. Io vado da parte delle Zeppelin. Io vado da parte dei Purple. Con tanta stima per i Purple, per carità. Con tanta stima per i Zeppelin, però ciao. Vai. Però magari troviamo un terreno comune adesso, Ale, visto che insomma, un altro gruppetto stiamo per annunciare. Un altro gruppo di quelli che sì, che possono, possiamo davvero dire, sì, loro sono i padri delle heavy metal. E comunque, al di là di queste considerazioni, certamente sono una band che ha contribuito al passaggio dall'hard rock all'heavy metal, pur conservando, pur non ancora emancipandosi, diciamo così, dal blues, che ancora si sentirà soprattutto nei loro primi album. Parliamo dei Black Sabbath, quindi restiamo ancora in Inghilterra. Per la precisione, ce ne andiamo a Birmingham, e qui in questa città inglese, che nel 1968 nasce una delle band più importanti e più influenti della storia del rock tutto, e del rock duro in particolare, band che ha venduto milioni di dischi, e che anche in seguito, quando la voce Ozzy Osbourne lascerà il gruppo, lui stesso, continuando la carriera come solista, sarà un altro personaggio che vedrà milioni e milioni di copie, diventando poi di fatto un'icona che possiamo definire quasi pop. I Black Sabbath, nella loro formazione originaria, che è quella che ci interessa lì, cioè quella formata dall'appena citato Ozzy Osbourne, da Tony Iommi, che è il personaggio che resterà per tutta la vita nei Black Sabbath, rimarrà l'unico membro originario fino all'ultima incarnazione di Black Sabbath, e loro si sono sciolti da pochissimo, solo nel 2017, quindi insomma hanno messo insieme 50 anni scarsi di tipo i Pooh, sì. Infatti loro, Iommi sempre fa molto, ha sempre nelle interviste di riprese tempo Fogli, molto vero? Ai Pooh. Lui è molto legato al periodo Riccardo Fogli, sì, non ha mai superato Riccardo. Quella. Salutiamo Riccardo. Quella fase. Vai. Cerchiamo di essere un po' più seri, perché dicevamo, perché Black Sabbath possono essere definiti i padri del metal, anche se loro stessi non si definivano così, e anzi, quando il metal diventerà un fenomeno importante musicale in tutto il mondo, nelle interviste tutti chiedevano i loro legami col metal, siete una band metal, siete i padri dell'heavy metal, ecco, loro non amavano, in particolare Tony Iommi non amava questa, entrare in questa categoria, insomma essere definita in questa maniera, amava correggere l'intervistatore dicendo no, noi più che i heavy metal siamo heavy rock. Poi però queste precisazioni furono abbastanza inutili, visto che saranno poi sempre in qualche modo, tra virgolette, condannati in quel calderone lì, saranno sempre poi catalogati come band heavy metal a tutti gli effetti. Loro però sono importanti, sono certamente un pioniere di un nuovo sound, questo è quello che portano loro come in dote al mondo del rock. Il loro sound è un sound potentissimo, ma niente affatto veloce, anzi è caratterizzato dalla lentezza. Il loro sound è massiccio, è monolitico, e paradossalmente furono molto influenti e furono molto amati da tutte le band heavy metal in senso stretto che nasceranno da lì a poco, come vedremo. Però come influenza musicale loro, esatto, non fecero stile nell'immediato, ma la loro influenza musicale è stata molto più presente negli anni seguenti, dopo gli anni 80, quando nasce il doom metal, quando nasce lo stoner metal, lo stoner rock. Ecco, in questi gruppi, non solo perché lo dichiaravano proprio le band, ma proprio è chiaramente misurabile, si avverte proprio l'influenza di Black Sabbath. Mentre dicevo, nell'heavy metal, che nascerà da lì a poco in Inghilterra, questa influenza si sente meno, quella musicale intendo. Invece sono un po' i Mingus del metal, secondo me. Però loro hanno un elemento che diventerà caratteristico, e per questo vengono, probabilmente possono essere definiti senza tema di smentita come dei padri fondatori del genere, cioè loro portano l'elemento horror in maniera più organica e più sistemica, come nessun'altra band aveva fatto prima, e questo appunto, come vedremo, questo immaginario di evocare dal satanismo all'horror, alla violenza in senso un po' più lato, comunque questi elementi qua saranno elementi proprio che contraddistingueranno un certo metal, quantomeno quello degli anni 80. E io poi, ecco, anche per loro, scusami, vai. Finisci. No, dico, loro questo è qualcosa che portano loro. Lo stesso nome Black Sabbath è curioso, nasce da è legato in qualche modo al nostro paese, nel senso che prendono il nome dal titolo di un film di Mario Bava. Il film, il nome originale è I tre volti della paura, però in Inghilterra, nel mercato inglese e anche nel mercato americano, uscì con il nome di Black Sabbath, appunto. E questo, e probabilmente il film gli era piaciuto, gli piaceva come suonava Black Sabbath, insomma, da lì presero il loro nome. Dicevi, Ale? No, io la cosa che volevo dirti è anche un po' che, diciamo, ci fa riflettere anche sul fatto di come poi alla fine queste immagini che i gruppi si creano poi se la portano appresso e ci giocano anche un pochino. Ho letto un'intervista a Tony Iommi, tu hai parlato anche di satanismo, gli hanno chiesto, dice, ma quanto c'era poi di satanico nella musica dei Sabbath, e lui ha risposto: la cosa più satanica che ho fatto nella mia vita è stata aprire una scatola di cioccolatini. Quindi è abbastanza emblematico. No, questa, ecco, questo ricorre in tante altre interviste, in tanti altri gruppi, in tanti altri gruppi accusati di vicinanza a pratiche, sì, a di qualche pratiche sataniche, dischi al contrario con messaggi. Semplicemente avevano capito che quell'elemento lì funzionava. Semplicemente in qualche altro caso c'erano gli appassionati di un genere cinematografico come l'horror, che poi non è solo cinematografico, è anche letteratura. Insomma, i motivi possono essere tanti. Certamente funzionava e certamente ha funzionato con i Black Sabbath. Allora, torniamo al punto d'origine e all'inizio, quasi ho terminato. Black Sabbath, nella loro formazione originaria, non l'ho ancora detto, sono il cantante Ozzy Osbourne, Tony Iommi, il chitarrista, e Bill Ward e Geezer Butler. Bill Ward alla batteria enorme e Geezer Butler al basso. E un'ultimissima cosa da dire: parlavamo del sound potente, lento, massiccio, monolitico dei Black Sabbath. Ecco, questo sound nasce un po' per caso, nel senso, o meglio, di necessità, virtù, perché Iommi, il chitarrista della band, giovanissimo, lavorava in fabbrica, ha un incidente sul lavoro, perde il dito, l'anulare e il medio della mano destra. Lui è mancino, quindi per lui è un cavolo di casino, cioè per lui passa momenti di estrema depressione, è tentato di abbandonare perché non riesce più a suonare. Sembra, dalle sue interviste, lui racconta che una figura fondamentale nel dargli forza, nel fargli capire che avrebbe potuto trovare un suo modo, è la figura di Django Reinhardt. Anche lui aveva perso le dita, nel suo caso, per un incendio. Quindi lui, appunto, si fa forza, trova uno stratagemma, e autoproducendosi delle protesi che ricavava squagliando dei tappi di plastica. E però questo modo di suonare, mentre gli dà molta potenza, incide molto sulla velocità. Insomma, non riesce a essere veloce, di fatto non lo sarà mai veloce, però proprio per suonare con le protesi e per suonare meglio sceglie di suonare con un'accordatura più lenta, e quindi abbassa di mezzo tono l'accordatura della sua chitarra. E questo fatto, che sembra banale, in realtà è quello che contraddistinguerà il sound dei Black Sabbath. Noi abbiamo scelto una canzone dal loro primo album. Il loro primo album esce nel febbraio del 70, addirittura qualche mese prima di In the Rock di Deep Purple, di cui ha parlato Ale prima, che uscirà a giugno. E da questo album abbiamo scelto il secondo singolo estratto, si chiama The Wizard, il mago. E a dire ancora dell'immaginario dei Black Sabbath, il personaggio, la canzone è ispirata a un personaggio del Signore degli Anelli che si chiama Gandalf, mi correggeva prima Ale. Gandalf, questo è il personaggio che ha ispirato questa canzone enorme. Loro sono i Black Sabbath, la canzone è The Wizard. Errare è umano. Ho presentato una canzone dicendo pure migliori, ispirata a Gandalf, invece no, e quella era The Wizard. Noi abbiamo sentito Wicked World, che è la canzone che chiude l'album. Mi sembra il Wizard a palla dai studi della Yonder Rossa. E vabbè, niente, torna a casa pure oggi senza soddisfazioni. Comunque, vabbè, comunque è giusta, è andata, va bene così, uguale, dimentichiamola. Comunque, restiamo a Birmingham, quindi siamo passati al 14 aprile del 1980. Esce British Steel dei Judas Priest, senza mezzi termini, l'album che determina cos'è e cosa non è heavy metal. Dunque, i Priest si formano nel 1969, sono loro i principali artefici della, diciamo così, la depurazione nell'hard rock del delle influenze blues che abbiamo visto con i Led Zeppelin e di quelle più progressive con i Deep Purple. E l'album in questione si chiamava Sad Wings of Destiny e uscì nel lontano 1976. Ora, 1980, siamo in piena new wave o British heavy metal. I Priest sono già un gruppo, insomma, molto di successo, la loro influenza era stata già enorme, non solo musicalmente, sono anche considerati coloro che hanno portato un po', diciamo, l'iconografia nel mondo dell'hard rock, fatta di abiti in pelle, le borchie, diciamo, associavano la loro immagine alle motociclette, spesso presenti anche nelle copertine, e poi erano anche in continua, diciamo così, in continua battaglia con la censura, anche a causa dei loro testi legati a temi religiosi oppure a sfondo sessuale. Quindi i Judas Priest, diciamo, incarneranno un po' lo stereotipo del gruppo metal che poi si sarebbe affermato almeno nel decennio successivo. Ma torniamo a British Steel, che, come ho detto, ridefinisce il genere e sarà uno spartiacque nel mondo del metal. L'acciaio britannico in questione, quello del titolo, è un riferimento alle acciaierie di Birmingham, dove lavorava il padre del cantante Rob Halford, e lo stesso chitarrista, anche Peter Glynn, aveva iniziato a lavorare lì, e poi, come ci ha detto Fabio, e Tony Iommi ci perse anche due dita. E racconta Halford: quando eravamo bambini, andavamo a scuola, passavamo davanti a queste fonderie di metalli e vedevamo il metallo fuso uscire fuori ed entrare in grandi contenitori. Stavamo letteralmente respirando i fumi di questo metallo, respiravamo metal. Lo stesso giorno, il 14 aprile 1980, esce anche un altro disco che segnerà la storia di questo genere, ovvero il primo album di un gruppo che si chiamava Iron Maiden, che sarà proprio il gruppo spalla dei Priest nel tour di British Steel. Un'altra piccola curiosità: all'interno del disco sono presenti molti rumori e furono tutti registrati in presa diretta, non veniva ancora utilizzato il campionatore. Nel disco ce ne sono diversi: le sirene della polizia, la marcia militare che loro fecero con gli scarponi all'interno dello studio, e poi anche all'interno del brano che sentiremo, i vetri rotti, presero proprio delle bottiglie di vetro del latte e le scagliarono a terra. Il pezzo che ci ascoltiamo è uno dei loro più famosi, si chiama Breaking the Law. Loro sono Judas Priest. Judas Priest, e qui con Breaking the Law iniziamo a sentire anche il sound di questo metal, no? Che si comincia a formare. Ringrazio l'ascoltatrice che ci ha chiamato. Non mi ricordo, perdonami se mi hai detto che ti chiami Monica o se Monica è un nome che è uscito completamente dalla mia fantasia. Comunque ti ringrazio e un saluto. Vai. Vabbè, restiamo in Inghilterra, restiamo in quel fenomeno che è stato ribattezzato New Wave of British Heavy Metal, per parlare del gruppo che forse più di ogni altro incarna l'heavy metal, è diventato negli anni di fatto il gruppo heavy metal per antonomasia, cioè Iron Maiden, l'hai nominati prima tu, per la singolare e fortunata coincidenza del Timoria. Fatto. Ti prego. L'hai nominato prima tu per la singolare coincidenza del fatto, cioè per il fatto che il loro primo album omonimo Iron Maiden esce lo stesso giorno in cui usciva il British Steel di Judas Priest. Un minimo di storia gli Iron Maiden la meritano. Loro nascono nel 1975 a Londra, e il fondatore del gruppo, che è il leader e l'autore della gran parte dei pezzi, è certamente la figura più importante non solo degli Iron Maiden ma forse di tutto l'heavy metal, è Steve Harris. E la band, quindi loro fanno una lunga gavetta, nel senso che il primo disco, come abbiamo detto, esce aprile dell'80, quindi in questi 5 anni ci saranno vari aggiustamenti di formazione, arriveranno a una formazione più o meno definitiva, e vedremo perché più o meno, quando insieme a Steve Harris ci daranno Paul Di'Anno alla voce, l'indimenticabile cantante dei primi 2 album del gruppo, lascerà appunto dopo il secondo album per problemi legati al consumo di droga, di alcol, e anche per il fatto che Steve Harris poi si innamorò di Bruce Dickinson, che diventerà la voce degli album a seguire da Number of the Beast in poi. Cliff Barr alla batteria, potentissimo, enorme. Dave Murray alla chitarra, anche lui un elemento che poi è rimasto sempre negli anni, e la seconda chitarra era Dennis Stratton. In realtà poi Dennis Stratton suonerà sì nel primo album dell'Iron Maiden, ma poi sarà sostituito a partire dal secondo album da Adrian Smith, e anche lui poi diventerà un elemento chiave della band, soprattutto per le due chitarre e per il continuo alternarsi, il continuo giocare insieme a Dave Murray. Oltre la musica, che per carità è importantissima, e quindi su Maiden non ripeto quello che hai detto tu su Judas Priest, nel senso che loro, anche per vie parallele e autonome, anche se i Maiden conoscevano benissimo Judas Priest, anche loro arrivano a formalizzare dei canoni, anche loro si allontanano in maniera chiara certamente dal blues, e diciamo anche forse che il prog nei Maiden resta, anche se poi si avvertirà più nei dischi a seguire, nei dischi della seconda metà degli anni 80 più che nei loro esordi. Comunque anche loro, dicevo, mettono, disegnano un canone, dicevi Ale? No, volevo soltanto dire che i Judas Priest, sottolineiamolo, erano probabilmente il gruppo metal più famoso prima dell'arrivo dei Maiden. Sì, poi Maiden spazieranno via chiunque. Un po' Jimmy Cliff, Bob Marley. Spazieranno via chiunque. Scusa. Sì, è un paragone che può reggere, ma e poi la particolarità dei Maiden è il fatto che loro davvero fanno una gavetta incredibile, cioè partono dai pub, e nel giro dei pub, dei piccolissimi locali che resteranno abbastanza tempo, fino ad arrivare agli stadi, fino ad essere un fenomeno globale. Ecco, oltre alla musica, che è certamente l'elemento fondamentale, c'è un altro elemento che è chiave per il successo dei Maiden e che li farà diventare appunto un brand mondiale, la figura di Eddie, perché penso che più o meno tutti sappiamo chi è, però insomma, per chi non conoscesse, la mascotte, il mostro, diciamo, che accompagna da sempre i Maiden e su tutte le loro copertine, su tutti i loro poster, manifesti, toppe, doppette, spillette. E se vi capita che non lo conoscete, andate a vedere la foto dell'aereo degli Iron Maiden. Sì, Eddie, disegnato da un tizio che si chiama Derek Riggs. Quando Steve Harris vede per la prima volta Eddie, se ne innamora e lo vuole per il primo album, lo conosce poco prima, le primissime cose dei Maiden, cioè un EP che si chiama The Sandhouse Tapes, e non è ancora legato a quell'immaginario lì. Insomma, quindi Riggs ha un'importanza, Eddie, la sua creatura, ha un'importanza fondamentale per il successo dei Maiden. Aggiungiamo che i Maiden quantomeno nel primissimo periodo, quello in cui c'è anche Boldiano, nei primi due album, diciamo, dei Maiden, Eddie rappresenta, nonostante abbia le sembianze di un mostro, è a tutti gli effetti un teppista, un emarginato, uno sbandato, un alcolizzato, cioè che è un giocatore dei cavalli praticamente, no, declinato in varie forme, però di fatto rappresenta sempre proprio il sottoproletario inglese, londinese in questo caso, di West London, per essere ancora più precisi. Non è così lontano poi da quello che succedeva in altri fenomeni e movimenti musicali, cioè il disegnare una figura che incarnava tutta i problemi, la rabbia, le speranze, i sogni, e non ci dimentichiamo di una generazione particolare, che è l'epoca dell'Inghilterra, no? Di fine degli anni 70, l'Inghilterra che si prepara, l'Inghilterra appunto che si prepara agli anni 80, al decennio della Thatcher, l'Inghilterra dei grandi scioperi, delle grandi sconfitte operaie, delle grandi repressioni, eccetera eccetera. Adesso non stiamo qui a fare una puntata di storia, ma comunque questa era per contestualizzare un minimo quel movimento lì, e in particolare i Maiden. Un'altra figura chiave degli Iron Maiden, che proprio aiuterà, sarà fondamentale nel loro successo, è il loro tecnico del suono e produttore. Lui si chiama Martin Birch, il soprannome era Headmaster. L'abbiamo già incontrato, anche se Ale non l'ha nominato, quando abbiamo ascoltato Deep Purple, perché lui è anche il produttore, il tecnico del suono, anzi, dei Deep Purple. Per dire, oltre in The Rock, Made in Japan, che forse è uno dei disco rock più conosciuto di sempre, era lui il tecnico di suono di quell'album, e lui entra come tecnico di suono e produttore degli Iron Maiden dal secondo disco, da Killer, uscito nel 1980, e noi sceglieremo una canzone proprio di questo album. E Birch, scusate, chiudo questa parentesi, rimarrà con i Maiden per tutta la sua carriera, fino al 1992, fino all'album che si chiama Fear of the Dark dei Maiden, poi abbandonerà proprio, abbastanza giovane, lascerà la carriera, ma lui, oltre Deep Purple e Iron Maiden, che già potrebbero bastare, ha poi prodotto i Black Sabbath, i Whitesnake e tanti altri gruppi. Insomma, è un personaggio veramente importante per definire quello che sarà l'hard rock, con i Deep Purple e l'heavy metal, poi dagli Iron Maiden in poi. E ci piace ricordarlo anche perché il 9 agosto del 2020, cioè quindi pochi mesi fa, Birch è venuto a mancare. E dicevo, noi abbiamo scelto una canzone di Killer, è la seconda traccia dell'album, è il primo singolo, la canzone si chiama Our Child, in realtà però è una delle primissime canzoni scritte da Steve Harris, tant'è che uscì ancora prima del primo album, uscì in una raccolta che si chiamava Metal for Mutas. In questa raccolta Iron Maiden stavano con due pezzi, ed era l'unico gruppo ad essere con due pezzi, uno era Sanctuary e l'altro pezzo era appunto Our Child, la canzone che ci ascoltiamo ora. Oh, Iron Maiden. Ma chiudiamo qua. La chiudiamo qua. Ringraziamo comunque anche l'ascoltatore che ci ha chiamato con la sua esperienza del concerto dei Maiden. Ce li siamo visti tutti e ti confermo che pure noi siamo tornati indietro, ahimè, da circa 20 anni. Ma io, guarda, la prima volta che ho visto i Maiden era settembre dell'88 a Modena, Monsters of Rock, quindi era uscito Seven Son e potrei... Va bene, dai. Chiudo qui. Comunque è rimasto, scusa, che prima ti ho criticato e poi non ho detto il perché. Come al solito. Prima abbiamo nominato Martin Birch, il tecnico del suono e produttore dei Maiden, tecnico del suono dei Deep Purple. Quello che non ho detto è che non abbiamo detto è che Hard Loving Man, la canzone. No, che non hai detto. Che non ho detto, ok? La canzone Hard Loving Man che abbiamo ascoltato prima dei Deep Purple è dedicata proprio a lui. E senti, è arrivato il momento anche di andare negli Stati Uniti, perché dopo tanto Inghilterra e qua iniziamo a parlare di heavy metal e quindi ci trasferiamo a Los Angeles. È il 1981, c'è il giovane James Hetfield che sta leggendo una fanzine, si chiamava Recycler, e legge un annuncio: batterista cerca altri musicisti metal per suonare pezzi di Tigers of Pan, Tang, Motorhead, Diamondhead e Iron Maiden. L'annuncio lo aveva messo un ragazzo danese, era arrivato in America per diventare un tennista professionista, si chiamava Lars Ulrich. Lo sapevi? Vuole diventare tennista? No, pensa. Non faccio la battuta. Ecco, esatto. A loro si uniscono anche un chitarrista, Dave Mustaine, e il bassista Rock McGovernie. E arriviamo al 1983 con questa band che intanto registra qualche demo, non arriva ancora a incidere nessun disco. Però in Inghilterra intanto si sta un po' affievolendo l'effetto della new wave of British heavy metal, mentre invece in California, diciamo, stavamo in piena era molto viva la situazione, in piena agitazione metal. I quattro Metallica trovano finalmente nella Megaforce Records, con sede a New York, l'aiuto per pubblicare un album. Mustaine e McGovney però vengono sostituiti prima della registrazione da Kirk Hammett e Cliff Burton, rispettivamente chitarra e basso. Mustaine poi, tra l'altro, ha spesso sostenuto anche la paternità un po' di quel sound e di quei pezzi, tanto che Kirk Hammett decise durante il disco di iniziare i suoi assolo riprendendo quelli che aveva fatto Hammett e poi cambiandoli e, insomma, mettendoci del tuo. Poi sappiamo che Mustaine non ha per niente portato rancore. No, ha perdonato subito nel corso della sua carriera. Esatto. Comunque partono per New York, non hanno una lira e i mezzi tecnici sono veramente ridottissimi, così è il budget, l'etichetta è molto piccola, impiegano circa 3 settimane a registrare il disco, non saranno interpellati in fase di missaggio, e anche questo loro hanno sempre sostenuto che, diciamo, avrebbero fatto molte cose diversamente. Comunque il primo disco si chiama Kill 'Em All, ma il titolo che loro avevano pensato era Metal Up Your Ass, però l'etichetta lo definì un po' troppo esplicito e quindi hanno optato per un sobrio Kill 'Em All, quindi uccidili tutti, con tanto di copertina in cui era raffigurato il martello con la chiazza di sangue. Beh, qui diciamo che nasce probabilmente l'heavy metal, forse nella forma che poi si svilupperà, diciamo, di più, non lo so, a livello probabilmente commerciale. No, ci nasce il thrash metal, no? Nasce lo speed. Sì, in senso, adesso forse non so se sembra un discorso troppo da filologi, da critici, però insomma il mondo della critica ama sostenere che con i Metallica nascono le heavy metal, e per distinguere quello che nasce con i Metallica da quello che c'era prima, dicono quello inglese è il metal, che c'è una sua storia legata all'hard rock e quindi alle influenze blues e poi alle influenze anche prog, come hai descritto tu prima quando parlavi di Deep Purple, mentre invece in America c'è una differenza culturale enorme, soprattutto nelle influenze musicali, e soprattutto in America c'è qualcosa che in Inghilterra non c'era, l'hardcore, che tanto influenzerà i Metallica sul piano della velocità, sound, violenza, sì, della... il suono diventa molto grezzo, diventa molto violento, anche i riff sono velocissimi. Poi è vero, come dici tu, che se entriamo più nei sottogeneri, più quello che a qualcuno può sembrare un'overdose di etichette, diciamo così, è vero che con Kill 'Em All, quello che dicevi tu, no? Nasce, sì, lo speed metal e quello che poi darà il thrash metal. Oh, io me l'ascolterei. Grazie. Whiplash Metallica. Comunque anche Ringo Starr poteva suonare meglio dell'Arts of Reach nei Metallica, secondo me. L'hai detto tu, eh? Ho detto io. Mazza che bomba, oh. Grande bomba, sì. Quanti anni sono passati? Però lasciamo il tempo che trovo, gli no, Stati no. Uniti, lasciamo la California, ci torniamo in Inghilterra per un gruppo che certamente, senza proprio anche in questo caso, senza timore di smentita, è annoverabile tra i padri fondatori dell'heavy metal e di tutto quello che di duro c'è. Di tutta la Val di Chieti. C'è stato nel rock. Un gruppo che hai nominato tu prima quando parlavi dell'annuncio di Lars Ulrich. Lars Ulrich faceva il nome di diversi gruppi, quattro gruppi se non vado errato. Ecco, uno di questi forse poteva dire solo un gruppo, i Motörhead, gruppo senza il quale probabilmente, ma non lo dico io, lo dicono loro stessi, lo dice Hetfield, probabilmente i Metallica non sarebbero mai esistiti o comunque non avrebbero mai preso quella forma lì, e Kill 'Em All avrebbe suonato in maniera diversa. Dentro Kill 'Em All c'è un esplicito omaggio ai Motörhead con la canzone Motor Priest, che sia musicalmente che nel titolo proprio è un omaggio. Ah, non l'ho detto, è vero, lo volevo dire. È un omaggio, io sono qui per questo, Vale. Scusa. È un omaggio alla band formata da uno delle icone del metal, proprio una figura amata o odiata, non ci sono molte vie di mezzo. Tutti lo conosciamo, lo conoscevamo con il nome di Lemmy, il suo nome all'anagrafe è Jan Kilmster, e lui era i Radio, sì, no, Radiohead, oddio, lui era i Motörhead, anche se adesso vedremo che nella formazione originaria il trio non era solo lui, anzi, ma comunque lui è la figura che è rimasta sempre, come è stato per gli Yomi, per i Black Sabbath, sempre all'interno del gruppo, e l'elemento non è mai cambiato, e il gruppo si è sciolto soltanto il 28 dicembre del 2015, cioè il giorno in cui Lemmy è venuto a mancare. E la band si forma nel 1975 a Londra, quindi siamo tornati un po' indietro negli anni, insieme a Lemmy, che tra parentesi non è un personaggio così banale in quello che ha fatto prima, nel senso che lui tra il 66 e il 69 era il roadie in Inghilterra di Jimi Hendrix, e a detta di Lemmy, dai racconti che fa, insomma, un legame tra i due esisteva. Probabilmente non erano grandi amici, o magari Hendrix vedeva lui come vedeva tanti altri roadie, però insomma in quei tre anni lì in Inghilterra la chitarra di Jimmy la teneva in mano Lemmy quando andava sistemato il palco prima dei concerti. E poi dopo dal 71 al 74 ha suonato il basso, perché lui era un bassista, negli Hawkwind, che è una band importante in quel... in quel genere che è stato ribattezzato space rock o qualcosa di simile. Con loro, dicevo, ha suonato dal 71 al 74. L'anno successivo viene cacciato via perché viene trovato in possesso di droghe, arrestato, passa 5 giorni in carcere, viene licenziato appunto dalla band. Lui ne approfitta per formare la sua di band, che prende il nome di Motörhead, che poi era l'ultima canzone che lui stesso aveva scritto per gli Hawkwind. Insieme a lui c'è Eddie Clark alla chitarra, quello che viene considerato il padre dei chitarristi thrash metal, e c'è soprattutto Phil Taylor alla batteria. Dico soprattutto perché era un batterista pazzesco, il più cattivo, il più potente in quegli anni, ed è soprattutto quello che dopo Judas Priest è quello che ha istituzionalizzato la doppia cassa, che è uno di quegli elementi che poi contraddistinguerà sempre l'heavy metal in qualsiasi forma poi prenderà in futuro. In Motörhead si potrebbe, anche nonostante abbiano avuto una carriera lunghissima, hanno avuto un periodo davvero d'oro, un periodo che va dal 79 all'81, dal 79 perché nel 79 esce il loro album probabilmente, anzi certamente, più amato dai fan, Overkill, che poi era Kill 'Em All, di fatto la traduzione americana, diciamo così, di Overkill, il concetto è quello. E nell'album Overkill, uscito a gennaio del 79, si apre con la title track Overkill, che viene considerato uno dei manifesti del heavy metal, uno degli inni proprio, come è stato Anarchy in the UK per il punk, come è stato per il grunge Smell Like Teen Spirit, insomma, e quella è l'importanza della canzone. Nello stesso anno esce un altro disco fondamentale dei Motörhead, che è Bomber. L'anno successivo esce un disco che finalmente dà giustizia ai Motörhead dal punto di vista del sound, perché le band dure, sia hard rock che heavy metal, hanno sempre un po' pagato la produzione. Registrare un disco a fine anni 70 certo non era come registrare un disco ora, quindi difficilmente in studio riuscivano a replicare la stessa potenza che esprimevano dal vivo o negli album live. il disco in questione è Ace of Spades, e noi sentiremo proprio la title track di questo pezzo. Finisco dopo questa trilogia, finisco il ragionamento sui Motörhead dicendo che poi c'è un quarto album che sarà il loro più grande successo commerciale, ed è pure abbastanza paradossale visto che il disco è violentissimo. Un disco dal vivo si chiama No Sleep Till Hammersmith, esce nell'81, e mentre Ace of Spades arriva già in alto in classifica perché arriva quarto in Inghilterra, questo arriva addirittura al primo posto. Dico addirittura perché non so se lo conoscete, ma il disco è davvero un ascolto impegnativo, non è certo un disco da sottofondo. E però questo succedeva in quegli anni, a riprova del fatto che la new wave British heavy metal sfondava, aveva spalancato definitivamente il suono, la strada alle band con un sound potente. Insomma, il pubblico era pronto per quel tipo di musica, e la riprova appunto è che nell'81 un disco del genere in Inghilterra finisce primo in classifica. Noi ci sentiamo, l'ho detto prima, Ace of Spades, una canzone comunque loro famosissima e splendida, tratta dal loro album omonimo, cioè omonimo, dal loro album che si chiama Ace of Spades. Loro sono i Motörhead. Ace of Spades, Motörhead, sono arrivati un po' di trillini, non abbiamo fatto ripartire perché è un po' tardi, quindi è colpa tua, niente, però troppo. Insomma, come chiacchieri, se fosse troppo, Ale. Io chiacchiero troppo, ma che te possi, no? E dunque la puntata di oggi l'abbiamo dedicata, noi siamo arrivati alla fine, è rimasto ancora un brano ai padri, ai maestri dell'hard rock e dell'heavy metal, a coloro che hanno segnato una strada e a coloro che hanno scritto o cambiato le regole del gioco. Il metal, come tutti i generi musicali però, ma anche un po' diciamo le correnti artistiche in generale, non nasce ovviamente da un giorno all'altro, ma come abbiamo visto è l'evoluzione di un qualcosa di precedente. Suono più forte di te, suono più veloce di te. Però se volessimo proprio tornare alle origini, ci vengono in mente gruppi come i Kinks, che non a caso hanno avuto delle cover anche da Ivan Allen, Stooges, MC5, Rolling Stones, no? i Vanilla Fugis, insomma veramente sono tanti i gruppi che possiamo annoverare tra, tra le ispirazioni dei grandi che poi hanno segnato. Anche lo stesso Hendrix, lo in qualche Hendrix, modo vorrebbe. Come no? Però se proprio, guarda, io proprio voglio trovare il disco zero, guardate come sono matto oggi, e studiosi e appassionati di metal più o meno concordano abbastanza all'unanimità, so che vai. Ah, perché non so, mi fai segni, che il primo disco metal fu quello che ascoltiamo in sottofondo, ve lo faccio ascoltare. Questo era il segno che ti facevo, alzare un po' il volume. Ovvero In Agadda da Vida degli Iron Butterfly, e in particolare la title track, appunto quel brano di 17 minuti che ricopre l'intera facciata del lato B. Ma tu hai mai scoperto che significa In Agadda da Vida? In Agadda da Vida, a quanto ho capito, è la, diciamo, la aspetta, come si dice? La D? Non so che vuoi dire. Cioè la trasformazione storpiata di In a Garden of Eden, che loro hanno fatto durante un viaggio lisergico, diciamo così. Per cui In a Garden of Eden, a Garden of Eden. Adesso il brano va ovviamente contestualizzato, siamo al 1968, però insomma il riff di chitarra, il drumming della batteria, gli assoli, questo tipo di distorsione, insomma tutti questi elementi fanno sì che appunto In Agadda da Vida è riconosciuto come il disco zero di questa corrente di hard rock o heavy metal. Noi però non ci ascoltiamo i 17 minuti di questa versione, ma ce li ascoltiamo, una versione molto più breve fatta da un gruppo che non è padre di nulla, però un gruppo importante nel metal, ovvero gli Slayer. La cover in questione fu inserita come colonna sonora all'interno del film Less Than Zero, film che vi consiglio di vedere, come vi consiglio anche di leggere il bellissimo libro di Bret Easton Ellis. Noi ce li ascoltiamo, fa alla prossima, è stato un piacere. Io riprendo il casco, risaliamo sulla Early. E no, ma quale casco? Io mi senza casco. Per far vedere meglio sul braccio, Slayer. Ciao a tutti e a tutti.